Oggi si festeggia San Riccardo, il santo conosciuto per il miracolo del calice. Auguri a tutti coloro che portano questo bel nome. Riccardo, un nome ancora molto in uso nell'onomastica popolare, era un vescovo inglese del quale re Enrico VIII volle cancellare la memoria fino a disperdere anche le sue reliquie, custodite fino all'anno 1538 dietro l'altare maggiore della cattedrale di Chichester. Era un figlio di modesti contadini inglesi. Fin da giovane si era abituato al duro lavoro della terra nella fattoria agricola della sua famiglia. Solo più tardi, grazie anche alla sua intensa attività che contribuì a migliorare le condizioni economiche della sua famiglia, quando le possibilità economiche glielo consentirono, Riccardo poté frequentare l'Università di Oxford. Nel prestigioso Ateneo inglese ebbe modo di studiare, avendo come maestri i futuri vescovi Robert Grosseteste e Edmondo Reich. Terminati gli studi ad Oxford, Riccardo, dopo aver più volte rifiutato altrettanti proposte di matrimonio, decise di proseguire gli studi anche nelle università di Parigi e in quella di Bologna. Completati brillantemente gli studi in Francia presso i padri domenicani di Orléans, tornò in Inghilterra. A Oxford venne nominato subito rettore, incarico che mantenne per circa 2 anni e l'anziano maestro Edmondo Reich, nominato arcivescovo di Canterbury, lo volle subito accanto a sé come cancelliere e in questo ufficio Riccardo ebbe modo di mostrare le sue eccezionali capacità, offrendo il suo contributo nel contrastare le indebite ingerenze del re Inghilterra. Accompagnò l'arcivescovo anche in un viaggio in Francia e gli fu vicino perfino sul letto di morte. È in questa occasione che Riccardo, dopo aver ricevuto in eredità dall'antico arcivescovo morente un calice, colpito da quel gesto, decise di diventare sacerdote. Si preparò al sacerdozio studiando teologia a Orléans e dopo l'ordinazione tornò in Inghilterra, dove svolse la sua attività pastorale come un semplice parroco a Clearing e a Deal nel Kent. Il nuovo arcivescovo di Canterbury, Bonifacio di Savoia, lo riprese come cancelliere, ma i vescovi inglesi lo volevano alla cattedra di Chichester. Quando però eletto vescovo di Chichester, la sua nomina venne energicamente contestata da re Enrico III, che lo osteggiò in tutti i modi, non intendendo in alcun modo riconoscerne la sua nomina. Non riuscendo nel suo intento, il re confiscò tutti i beni della diocesi, costringendo Riccardo a chiedere ospitalità a un parroco delle campagne vicine, fissando la sua dimora a Tarrang, nel Sussex. Questa situazione costrinse il vescovo Riccardo a spostarsi a piedi attraverso tutta la diocesi per le visite pastorali e a lavorare i campi per potersi guadagnare il pane quotidiano. I suoi fedeli lo vedevano spesso dietro l'aratro, lo vedevano a caricare i carri e ciò appunto per poter provvedere alle sue necessità pastorali e a quelle della curia. Per questo motivo il Santo Vescovo è venerato come il patrono dei cocchieri e dei carrettieri. Incurabile della opposizione del re, Papa Innocenzo IV confermò la sua elezione e giunse a minacciare il sovrano di scomunica, allo scopo di far accettare la sua nomina e ottenere la restituzione dei beni ecclesiastici confiscati. La minaccia fece piegare il re, così che Riccardo, poté prendere possesso della sua carica. Divenne un vescovo esemplare, molto esemplare, per la sua capacità di dialogo, per la sua attenzione verso i più bisognosi, specialmente in tempi di grande carestia per il paese, oltre che per le sue doti di buon legislatore per la diocesi a lui affidata. Ai sacerdoti Riccardo chiese di celebrare l'Eucaristia in condizioni dignitose. La stretta osservanza del celibato, chiese la residenza e l'uso dell'abito talare. Ai laici, invece, Riccardo chiese l'impegno di assistere alla Santa Messa tutte le domeniche e le feste religiose, nonché la conoscenza a memoria delle principali preghiere del cristiano, come l'Ave Maria, il Credo, il Padre Nostro. Riccardo morì ad Aver mentre si stava recando per una missione popolare e la sua tomba divenne subito una meta di pellegrinaggio molto popolare durante tutto il Medioevo. Si racconta che durante la Santa Messa a Riccardo cadde di mano il calice contenente il vino consacrato. Mentre il santo raccoglieva la sacra specie, scoprì che miracolosamente nulla si era versato. Per questo il santo è raffigurato con il calice ai suoi piedi. E allora noi oggi in questa festa di San Riccardo rivolgiamo al Padre la seguente preghiera. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce, anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me ci sono rancore e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io, il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen.